Sezione tredicesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto tredicesimo. Immagini chi bene intender cupa quel ch'ior vidi e ritenga l'image, mentre ch'io dico come ferma rupe. 15 stelle che in diverse piage lo cielo avvivan di tanto sereno che soverchia dell'aere ogni compage. Immagini quel carro a cui il seno basta del nostro cielo e notte e giorno, sì ch'al volger del temo non vien meno. Immagini la bocca di quel corno che si comincia in punta dello stelo a cui la prima ruota va d'intorno, aver fatto di sé due segni in cielo, qual fece la figliuola di Minoi allor che sentì di morte il gelo. E l'un nell'altro aver di raggi suoi ed amendue girarsi per maniera che l'uno andasse al pria e l'altro al poi. Ed avrà quasi l'ombra della vera costellazione e della doppia danza che circulava al punto dov'io era. Poiché tanto di là da nostra usanza, quanto di là dal muover della chiana, si muove il ciel che tutti gli altri avanza. Lì si cantò, non Bacco, non Peana, ma tre persone in divina natura, ed in una persona essa è l'umana. Compie il cantare il volger sua misura e attesersi a noi quei santi lumi, felicitando sé di cura in cura. Ruppe il silenzio nei concordi numi poscia la luce in che mirabil vita del poverel di Dio narrata fumi. E disse, quando l'una paglia è trita, quando la sua semenza è già riposta, a batter l'altra dolce amor mi invita. Tu credi che nel petto onde la costa si trasse per formar la bella guancia, il cui palato a tutto il mondo costa, ed in quel che forato dalla lancia e poscia e prima tanto soddisfece che d'ogni colpa vinse la bilancia, quantunque la natura umana lece, aver di lume tutto fosse infuso da quel valor che l'uno e l'altro fece. E però ammiri ciò che io dissi suso, quando narrai che non ebbe secondo il ben che nella quinta luce è chiuso. Ora apri gli occhi a quel ch'io ti rispondo, e vedrai il tuo credere e il mio dire nel vero farsi come centro il tondo. Ciò che non muore e ciò che può morire non è se non splendor di quella idea che partorisce amando il nostro sire, che quella viva luce che si mea dal suo lucente, che non si disuna da lui né dall'amor che in lor s'intrea, per sua bontade il suo raggiare aduna, quasi specchiato in nove sussistenze, eternalmente rimanendosi una. Quindi discende all'ultime potenze, giù, d'atto in atto, tanto divenendo che più non fa che brevi contingenze. E queste contingenze essere intendo le cose generate, che produce con seme e senza seme il ciel movendo. La cera di costoro e chi la duce non sta d'un modo, e però sotto il segno ideale poi più e men traluce, onde egli avvien con medesimo legno secondo specie meglio e peggio frutta, e voi nascete con diverso ingegno. Se fosse appunto la cera dedutta e fosse il cielo in sua virtù suprema, la luce del suggel parrebbe tutta, ma la natura la dà sempre scema. Similmente operando all'artista, ca l'abito dell'arte e manche trema. Però se il caldo amor la chiara vista della prima virtù dispone segna, tutta la perfezion quivi s'acquista. Così fu fatta già la terra degna di tutta l'animal perfezione. Così fu fatta la Vergine pregna. Sì ch'io commendo tua opinione, che l'umana natura mai non fue, né fia, qual fu in quelle due persone. Or, s'io non procedessi avanti piue, dunque, come costui fu senza pare, comincerebber le parole tue. Ma, perché paia ben quel che non pare, pensa chi era, e la cagion che il mosse, quando fu detto chiedi a dimandare. Non ho parlato sì che tu non posse ben veder che il fu re che chiese senno a ciò che re sufficiente fosse. Non per sapere il numero in che enno li motor di quassù, o se necesse con contingente mai necesse fenno, non si essa dare prima un motum esse, o se del mezzo cerchio farsi puote triangol sì cun retto non avesse. Onde, se ciò che io dissi è questo note, regal prudenza è quel veder impari in che lo stral di mia intenzion percuote. E se al surse drizzi gli occhi chiari, vedrai aver solamente rispetto ai regi, che son molti, e i buon son rari. Con questa distinzion prendi il mio detto, e così puote star con quel che credi del primo padre del nostro diletto. E questo ti fia sempre piombo a piedi, per farti muover lento come un lasso, e al sì e al no che tu non vedi, che quegli è tra gli stolti bene abbasso, che senza distinzion afferma e niega, così nell'un come nell'altro passo. Perché gli incontra che più volte piega l'opinion corrente in falsa parte, e poi l'affetto lo intelletto lega. Vie più che indarno da riva si parte, perché non torna tal qual e si muove chi pesca per lo vero e non ha l'arte. E di ciò sono al mondo aperte pruove Parmenide, Melisso e Brisso, e molti, li quali andavano e non sapean dove, si fe Sabellio ed Arrio, e quegli stolti che furon come spade alle scritture in render torti di diritti volti. Non sien le genti ancor troppo sicure a giudicar, sì come quei che stima le biade in campo, pria che sien mature. Ch'io ho veduto tutto il verno prima il prun mostrarsi rigido e feroce, poscia portar la rosa in sulla cima. E legno vidi già dritto e veloce correr lo mar per tutto il suo cammino, per ire al fine all'entrar della foce. Non creda, monna Berte Serbarino, per vedere un furare, altro ferere, veder di dentro il consiglio divino, che quel può surger e quel può cadere. Fine del canto 13.